Infinity Cure inizia prove tecniche di trasmissione anche per oggi, 2 febbraio del 2022 alle ore 21.01. Spazio che andrà in onda sino alle 22.30, allorché poi subentrerà ai controlli 25 o'clock con ospiti Stefano Tarquini di Palcoscenico al Neon, ma si parlerà di libri e di letteratura. Si va a salutare Tabula Rasa da Cortina d'Ampezzo, Cornelio Basilisco di Umanima, Massimo Oders Mascherone, Alberto Clipper. Lucia Cagliazza di Lupsi, quel di Udine, Moschita de Miramar da Harlem, Olanda, il medico della peste, Mariano Mirdia da Berlino. Marco Milanesio di Disordine, un notevole pezzo di storia musicale italiana. Maya in quel della Sardegna al pari di Nicola Locci di Stigmate e Hexagonal. L'amico omicidio Antichrist da Firenze. Valerio Michetti della Grazia Obliqua insieme a Ale Trinity Bersiani, anche di Fate to Grey. Giovanni Nisi, buonasera anche lui, Cordis Cinti Serpente, Enrico Cerrato di Petrolio. Rosa la Vita, il Noise Cluster con Flavio Derbecante e Arianna Degni Lombardo. Saluto anche Dez De Carlo from Boston. Lucky Wake. Giulia e Alessandra qui a Roma. E dopo questa moltitudine di saluti andiamo ad iniziare questa puntata di prove tecniche di trasmissione con andare a conoscere meglio Demoniacum di Rise on Death, secondo CD che accompagna Demonium, primo CD che invece abbiamo apprezzato nelle scorse settimane. Chiaramente le coordinate sono assai simili e lo andiamo a verificare subito con Extrication from the Eternal Certitude. Eccoci qua, dunque abbiamo iniziato, come facciamo ormai da molte settimane, con l'ultimo lavoro di Raison d'être, di Peter Andersson, artista proveniente dalla Svezia, con un gloriosissimo passato attraverso la Cold Meat Industry. Uno degli episodi, direi uno degli album più ispirati della carriera di Raison d'être, sempre buoni livelli, ma mi sento di dire che questo Demonium Demoniacum ha qualcosina in più rispetto a prove anche recenti, forse un po' manieristiche. Extrication from the Eternal Certitude. Quindi molta carne al fuoco, un doppio CD che esce per la Cyclic Low. E andiamo nella cosiddetta zona Raffaele Pezzella, andando ancora una volta a visitare l'enorme cartellone di uscite che ha fatto Raffaele Pezzella nella sua carriera. Noi ci stiamo focalizzando ovviamente sul recente 2021 ed è il turno di Stellar Drone Islands, che come recita il titolo, il tutto viene incentrato e analizzato dal punto di vista dei drone, con una serie di artisti, diciamo, specifici per quanto riguarda questo tipo di proposta sonora. E quindi si sposa anche abbastanza bene, direi, con l'inizio dedicato a Raison d'être. Cominciamo con un artista italiano dal nome Plume e di lui ci andiamo ad ascoltare Sospensione. Continuiamo con un altro artista molto molto sotterraneo dal nome MLS con Sidereal. questa era Plum, proveniente da Varese, uno dei protagonisti di questa Stellar Drone Island. E il prossimo artista si chiama MLS, proviene dalla Russia, e questa è la traccia che ci andremo ad ascoltare e porta il nome di Sidereal. terzo volume della saga Drone Island, esattamente Drone Island Stellar, con la 8 Tower Records, naturalmente di Raffaele Pezzella con Plume e MLS. Avvolgenti labirinti, effettivamente siderali, un viaggio nello spazio, e tutti i riferimenti delle tracce, bene o male, hanno un riferimento a stelle, pianeti, universi lontani. Un altro capitolo eccellente da annoverare per quanto riguarda la produzione di Raffaele Pezzella e la sua sussidiaria della Inexpress Sounds Records dal nome 8 Tower Records. Saluto Jess Gallagher e il buon Marcio Gronge, che ci ascolteremo tra qualche minuto e che ci preannuncia anche delle nuove uscite, una per esempio, credo sempre come Marcio Gronge, dal nome Zvuk. Un saluto anche a un altro affezionato amico, Paolo Contucci da Roma Est. Dagli abissi siderali, in un certo senso, e scusate il gioco di parole, ma ci andiamo invece a parametrare con Michele Papa, un artista proprio qui di Roma, che parzialmente riprende questo tipo di atmosfere, arricchendole però con un retrogusto etnico che di tanto in tanto viene fuori nei suoi lavori. Questa sera è il turno di Mono Locale, un quattro tracce, tracce abbastanza lunghe, e questa sera ci ascoltiamo Ingresso. Thank you. vado a risalutare Alessandra qui a Roma. E per quanto riguarda Marcio Gronge, Zvuk sarà una sorta di collettivo aperto, una parola slava che significa suono, un collettivo diciamo fondato da Marco Andjelic, anche lui diciamo raccoglitore di suoni e rumori, che ha condiviso con il nostro Marcio e che a sua volta ha condiviso con altri musicisti. Uscirà un lavoro dunque sempre con la Effedrina Net Label e spero ovviamente di proporlo qui in radio. Lui era Modo Locale, Michele Papa, e questo era Ingresso. Abbiamo nominato la Serbia ed è proprio da quelle parti che noi andiamo adesso. Lo facciamo con Autopsia, che stiamo setacciando alquanto nelle ultime settimane e per quell'ultima volta questa sera operiamo un passaggio da The Silence on the Lamb Wald Symphony, dal quale estraiamo Zuhören der Sieger, una delle tracce più lunghe di questo EP allungato ristampato nel 1995 dalla Teutonica Hypnobeats. Since he stops, he becomes the hunter. epico, sinfonico e allo stesso tempo potente, con qualche fuga verso suoni più medievaleggianti. Adesso soprattutto il suo essere così marziale, che è una qualità che io apprezzo, una sorta di estremizzazione di ciò che abbiamo già ascoltato in molti frangenti, per esempio in The Nursery. Questo era un lavoro del 1993 in origine. Ricordiamo, la scorsa settimana ci siamo ascoltati Werkstatt, ultimo lavoro, anche quello direi da reperire, da suonare qui da queste frequenze. Buonasera a Enrico Fanzoni di Sokunshi Butsu Project e il buon Gianluca Becuzzi, Roberto Faloci di Phantom Ship. Abbiamo accennato qualche tempo fa una collaborazione tra, diciamo, amici di questo spazio, ossia Nicola Locci, Flavio Derbecante e Arianna Degni Lombardo. Quindi un'unione di intenti tra Noise Cluster e Stigmate. Hanno partorito questo Extreme Sleepwalking, un concentrato delle rispettive qualità di questi tre artisti molto, molto accattivante, e che cominciamo a conoscere con Mind Bender e Sleep Mutation, che sono le prime due tracce. efficacissima collaborazione tra Noise Cluster di Flavio Derbecante, Arianna Digni Lombardo e il nostro Nicola Locci come Stigmate. Notevole la tensione drammatica e la forza ritmica impressa da questi tre musicisti, arricchiti anche dalla tromba aliena di Flavio Rivabella. Il 2022 inizia molto bene dunque con questa eccellente produzione italiana. Mi fa piacere anche sapere il fatto che in fondo si sono conosciuti tramite prove tecniche di trasmissione, ed il fatto poi che abbiano trovato spazio per collaborare mi rende oltremodo felice. E di questo Extreme Sleepwalking naturalmente ne ascolteremo ulteriori passaggi nelle prossime settimane. Buonasera anche a Cristiano Bocci di Chemical Resistance e Duo Serpe. Peraltro suoni ben curati, ben registrati, a dimostrazione della perizia e la professionalità e la passione di questi tre musicisti. Veniamo al nostro Marcio Gronge, il nostro carissimo Marcio Gronge. Ci andremo a deliziare ulteriormente attraverso quattro quadretti elettronico-visionari estratti da Obsolescenze Programmate, questo ultimo suo lavoro con l'Effedrina Nate Label. Anche qui molte tracce, una ventina e più. E questa sera è il turno di Renditi Disponibile, Toccare lo Schermo, Ultra Tunnel e Risacca.